Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir, traduzione di Franco Lucentini. Henri stava salendo la scala del giornale quando incrociò Césénac. «Ma guarda», disse amichevolmente, «come stai? Che fai?» «Niente di speciale», disse Césénac. Era ancora più floscio e livido d'una volta. «Non risali un minuto?» disse Henri. «Sono secoli che non ci vediamo». «Non oggi», disse Césénac andandosene in fretta. Henri salì gli ultimi gradini. Nel corridoio c'era Lambert che pareva aspettarlo. «Ho giusto incontrato Césénac», disse Henri. «Lo vedi qualche volta? Che cosa fa?» chiese aprendo la porta del suo ufficio. «Credo che faccia l'informatore della polizia», disse Lambert con voce bizzarra. Henri lo guardò con stupore. «Che cosa te lo fa pensare?» «Certe cose che m'ha detto. Cosa t'ha raccontato?» «M'ha proposto uno strano affare, m'ha promesso di dirmi chi è stato ad ammazzare mio padre in cambio di certe informazioni». «Che informazioni?» Lambert guardò Henri negli occhi. «Informazioni su di te». Henri sentì un colpo alla bocca dello stomaco. «E in che cosa interesso la polizia?» disse con voce stupita. «Interessi Césénac», disse Lambert senza staccargli lo sguardo di dosso. «Pare che tu abbia testimoniato l'altro giorno in favore d'un certo Mercier, un tipo che faceva il mercato nero in Normandia e frequentava le Belle Hommes. Tu hai assicurato che lavorava nel 43-44 nella nostra organizzazione e che t'accompagnò a Châteauroux il 23 febbraio del 44. «Esatto», disse Henri. «E con questo?» «Tu non avevi mai incontrato Mercier prima d'ora», disse Lambert con voce trionfante. «Césénac lo sa bene e lo so anch'io. Sono sempre stato con te quell'anno e non c'era nessun Mercier. Il tuo viaggio a Châteauroux fu il 29 febbraio. Avrei dovuto accompagnarti io e quella data mi colpì. Poi invece andasti con Chancel. Il 23 eri a Parigi», disse Lambert. «Ho gli appunti di tutto e verificherò. Ma sono sicuro che facesti un viaggio solo. No, non raccontarmi storie. La verità è che Mercier ha in mano le Belle Hommes in un modo o in un altro e che per salvare quelle due teste già rapate hai spergiurato in favore di una spia della Gestapo». «Se non fossi tu ti romperei la faccia», disse Henri. «Ma vattene subito da quest'ufficio e non rimetterci piede mai più». «Non ho inventato niente», disse Lambert. «Dio, che imbecille sono stato. Ti credevo talmente onesto, talmente disinteressato. Mi intimidivi e mi immaginavo di doverti la più stretta lealtà. Bella lealtà! Tu giudichi tutti, ma al bisogno non ti fai più scrupoli di un altro. Di nessun altro!» Se ne andò con tanta dignità che Henri ebbe quasi voglia di sorridere. La sua collera era caduta. Non sentiva più che una vaga angoscia. Spiegarsi francamente? No, Lambert era troppo instabile, troppo influenzabile. Oggi aveva rifiutato di parlare a Césénac, ma domani quelle informazioni potevano diventare nelle sue mani o in quelle di Volange un'arma temibile. Bisognava negare. Il pericolo era già abbastanza grande così. «Se Césénac cerca prove contro di me», pensò, «vuol dire che sa di poterle vendere care». Dubreuil non aveva mai sentito parlare di Mercier e si ricordava forse che il 23 febbraio del 44 Henri era a Parigi. Se Césénac l'avesse preso di sprovvista, non avrebbe avuto alcun motivo di cambiare la verità. «Dovrei avvertirlo», pensò, ma gli ripugnava reclamare la complicità di Dubreuil in quelle circostanze e senza aver fatto ancora niente per riconciliarsi con lui. Del resto non poteva pensare di confessargli la verità. «Sono in pericolo», si ripeté. Ma anche un altro era in pericolo, Vincent. Anche se non era stata la sua banda a far fuori il vecchio, Césénac la sapeva lunga su di lui. Bisognava avvertirlo. E bisognava andare subito da Luc, che era in casa con una crisi di gotta, per preparare con lui una lettera di dimissioni. Luc s'aspettava da tempo una crisi e probabilmente la cosa non l'avrebbe colpito troppo. S'alzò. «Non mi siederò più a questa tavola», pensò. «Addio, espoir». Gli dispiaceva abbandonare la campagna che aveva cominciato sui fatti di Madagascar. Gli altri evidentemente avrebbero messo tutto a tacere, ma a parte questo si sentiva molto meno commosso di quel che avesse pensato. Scendendo le scale si disse vagamente: «È il prezzo che devo pagare». Il prezzo di che? D'essere andato a letto con Josette? D'aver voluto salvarla? D'aver preteso di conservare una vita privata mentre l'azione esige l'uomo intero? D'essersi ostinato nell'azione senza dedicarcisi senza riserve? Non lo sapeva. E anche se l'avesse saputo, niente sarebbe cambiato. Thank you. La notte in cui le rotative stamparono la sua lettera di dimissioni, Henri raccomandò al portiere dell'albergo: «Domani non ci sarò per nessuno, né visite né telefonate». Aprì di malavoglia la porta della propria camera. Non era più stato a letto con Josette. Lei non aveva l'aria di prendersela troppo e tutto andava benissimo così. Ma quel letto dove dormiva solo gli parve austero, come un letto d'ospedale. Il giorno dopo si alzò tardi. Stava finendo di vestirsi quando gli portarono un biglietto. Ebbe un colpo al cuore riconoscendo la calligrafia di Dubreuil. «Ho appena letto la vostra lettera d'addio all'Espoir. È proprio assurdo che il nostro atteggiamento sottolinei soltanto i nostri disaccordi quando tante cose ci avvicinano. Quanto a me, sono sempre vostro amico». C'era un po' scritto: «Vorrei parlarvi al più presto possibile a proposito di qualcuno che sembra volervi del male». Henri restò a lungo con gli occhi fissi sul piccolo foglio. Lui aveva pensato a scrivere, ma era Dubreuil che l'aveva fatto. E l'aveva fatto con una generosità senza orgoglio, o con un orgoglio che era soltanto virtù generosa. «Ci vado subito». Salì in automobile. S'accorse per la prima volta di quanto possa essere pesante un segreto. Un segreto che non si può tacere senza ingannare un altro, che non si può confessare senza tradire se stessi. Esitò a lungo davanti alla porta, prima di decidersi a suonare. Dubreuil gli aprì sorridendo. «Come sono contento di vedervi», disse in un tono naturale e premuroso, con l'aria di chi rivede qualcuno dopo una breve assenza e ha cose importanti da discutere con lui. «Sono io che sono contento», disse Henri. «Il vostro biglietto mi ha fatto un piacere straordinario». E mentre entravano nello studio aggiunse: «Avevo spesso desiderato di scrivervi». Dubreuil l'interruppe. «Cos'è successo?» chiese. «Lambert va mollato». «Erano mesi che Samazelle e Trarieux volevano passare al gollismo», disse Henri. «Lambert ha finito per mettersi con loro». «Il piccolo sudicione», disse Dubreuil. «Ha delle scuse», disse Henri imbarazzato. Sedette nella solita poltrona e accese la solita sigaretta. Le vere scuse di Lambert doveva tenerle segrete. Disse rapidamente: «Abbiamo avuto una discussione e io l'ho spinto agli estremi». «Doveva finire così», disse Dubreuil. «Ebbene, tutto è al posto. L'SRL è morto, a voi hanno rubato il giornale. Eccoci tornati a zero». «È colpa mia», disse Henri. «Non è colpa di nessuno», disse vivamente Dubreuil. Henri alzò le spalle. «Avete un bel dire. Sono io il responsabile di tutto quello che è successo. Se non mi fossi impuntato, voi avreste ricomprato la parte di Lambert. L'Espoir sarebbe nostro e l'SRL si reggerebbe ancora». «L'SRL era perduto in tutti i modi», disse Dubreuil. «L'Espoir, sì, avrebbe potuto salvarsi, ma l'SRL era condannato fin dal principio». Henri si sentì sconcertato. Gli sarebbe ben piaciuto di potersi considerare affatto irresponsabile dello scacco dell'SRL, ma quell'affermazione di Dubreuil lo metteva a disagio. Nel suo libro, Dubreuil constatava l'impotenza degli intellettuali francesi, ma Henri non aveva pensato che quelle conclusioni avessero anche una portata retrospettiva. «Da quando pensate questo?» chiese. Dubreuil alzò le spalle. «Da un pezzo. Fin dal principio la partita non si è svolta che tra Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Noi ne eravamo del tutto fuori». Era proprio quel che Henri si era detto tante volte. «Non possiamo niente». Ma ora gli seccava che Dubreuil affermasse con tanta sicurezza. «Abbiamo sempre saputo d'essere una minoranza», disse. «Ma voi ammettevate che anche una minoranza può avere la sua efficacia?» «In certi casi, ma non in questo», disse Dubreuil. E continuò a sfogarsi parlando fitto. Era evidente che aveva il cuore pesante già da molto tempo. «La resistenza», disse, «andava benissimo, un pugno d'uomini bastava. Tutto quel che volevamo, in fin dei conti, era di creare un'agitazione. Agitazione, sabotaggio, resistenza, tutte cose che una minoranza può fare. Ma quando si pretende di costruire, è tutta un'altra questione. Noi credevamo di poter profittare del nostro slancio e non ci siamo accorti che tra il periodo dell'occupazione e quello che ha seguito la liberazione c'era una frattura radicale. Rifiutare la collaborazione dipendeva da noi. Il seguito già non ci riguardava più». «Ma mi pare che un po' ci riguardasse», disse Henri. «Immagino che fossimo troppo ottimisti, ma la cosa si spiega». «Ma certo, ammetto anch'io che abbiamo tutte le circostanze attenuanti», disse Dubreuil. «Il successo della resistenza, la gioia della liberazione ci giustificano largamente. Il buon diritto trionfava, l'avvenire pareva promesso agli uomini di buona volontà, e noi col nostro vecchio fondo di idealismo non chiedevamo che di crederci». Alzò le spalle. Siamo stati dei bambini. Henri restò in silenzio. Ci teneva quel passato, appunto come si tiene ai ricordi d'infanzia. Sì, quel tempo in cui si distinguevano senza esitare gli amici dai nemici, il bene dal male. Quel tempo in cui la vita era semplice come un'immagine di Pinal. Quel tempo rassomigliava davvero a un'infanzia. La sua stessa repugnanza a rinnegarlo dava ragione a Dubreuil. «Secondo voi», chiese, «cosa avremmo dovuto fare?» Sorrise. «Iscriverci al Partito Comunista?» «No», disse Dubreuil. «Come avete detto voi una volta, non ci si può impedire di pensare quel che si pensa. Impossibile uscire dalla propria pelle. Noi saremmo stati dei pessimi comunisti», aggiunse bruscamente. «E del resto, cosa hanno fatto? Non hanno fatto proprio niente. Erano incastrati anche loro». «E allora?» «Allora niente, non c'era niente da fare». «Peccato che non ce ne siamo accorti prima», disse Henri. «Ci saremmo risparmiati una quantità di strazi». «Non potevamo accorgercene prima», disse Dubreuil. «Ammettere che s'appartiene a una nazione di quint'ordine, a un'epoca superata, non è cosa che possa farsi in un giorno». Scosse la testa. «Ci vuole tutto un lavoro per rassegnarsi all'impotenza». Henri lo guardò con ammirazione. «Che bellissimo gioco di prestigio!» Non s'era trattato d'un fallimento, ma soltanto d'un errore. E questo errore stesso era giustificato, dunque abolito. Il passato era netto come un osso di seppia e Dubreuil appariva come un'impeccabile vittima della fatalità storica. Già, ma Henri non trovava affatto che la cosa fosse così soddisfacente. S'era così spesso domandato chi fosse, ed ecco che gli rispondevano: un intellettuale francese, esaltato dalla vittoria del 44 e riportato dagli avvenimenti alla lucida coscienza della propria inutilità. Guardò Dubreuil con un sorriso incerto. «Ho letto il vostro libro», disse Henri. «Insomma, voi pensate che si possa far qualcosa solo mettendosi francamente con i comunisti?» «Sì, non che la loro posizione mi paia brillante, ma il fatto è che fuori di loro non c'è niente». «E tuttavia non vi mettete con loro», sorrise. «Secondo voi non sa più nemmeno il diritto di scrivere?» Anche Dubreuil sorrise. «Oh, forse un po' esagerato. Dopotutto la letteratura non è poi così pericolosa». «Ma trovate che non ha più senso?» «Voi trovate che ne ha?» «Sì, visto che continua a scrivere. Non è una ragione». Henri lo guardò con sospetto. «Voi scrivete ancora o non scrivete più?» «Non si guariscono le manie dimostrando che non hanno senso», disse Dubreuil. «Se no i manicomi sarebbero vuoti». «Ah, meglio così», rise Henri. «Insomma, non siete ancora riuscito a convincere voi stesso». «Forse un giorno ci riuscirò», disse Dubreuil in tono scherzoso. Poi entrò in argomento. «Dite un po', volevo avvertirvi. Ho avuto una strana visita ieri. Quel Sézénac, non so cosa gli abbiate fatto, ma è certo che ce l'ha con voi». «Lo mandai via dall'Espoir parecchio tempo fa». «Ah. Dunque, ha cominciato a farmi una quantità di domande senza capo né coda. Se conoscessi un certo Mercier, se voi eravate a Parigi, non so più in che giorno del 1944. Prima di tutto non mi ricordo di niente. E poi non era cosa che lo riguardasse, no? L'ho mandato a spasso piuttosto seccamente, e allora si è messo a raccontarmi una storia da dormire in piedi. Su di me? Sì, è un mitomane quel giovanotto, può essere pericoloso. M'ha detto che voi avreste testimoniato il falso per far prosciogliere una spia della Gestapo, che v'avrebbero ricattato attraverso la piccola Belom. Ma bisogna impedirgli di mettere in giro storie simili. Henri capì con sollievo dal suo tono che Dubreuil non aveva immaginato neppure per un istante che Sézénac potesse dire la verità. Bastava gettar là, sorridendo, una frase negligente e l'incidente era chiuso. Ma non trovava la frase. Dubreuil lo guardò con un po' di curiosità. Non sapevate che vi detestasse fino a questo punto? Non è che mi detesti particolarmente, disse Henri, e aggiunse improvvisamente, il fatto è che la sua storia è vera. Ah, è vera, disse Dubreuil. Sì, l'idea di mentire d'un tratto l'aveva umiliato. Riprese in un tono quasi di sfida. Ho testimoniato il falso per salvare Josette, che aveva dormito con un tedesco. Allora è vero che questo Mercier era una spia? Chiese Dubreuil. È vero, e meritava perfettamente d'essere fucilato, disse Henri. Guardò Dubreuil. Trovate che ho fatto una sudiceria. Ma non volevo che Josette avesse la vita rovinata, o che s'ammazzasse. Non me lo sarei perdonato. Mentre un Mercier di più o di meno sulla terra, lo confesso, non è una cosa che mi impedisca di dormire. Dubreuil esitò. Però è sempre meglio uno di meno che uno di più. Sapete cosa prova questa storia? Disse Dubreuil con improvvisa animazione. Che la morale privata non esiste. Non si può condurre una vita retta in una società che non lo è. Da una parte o dall'altra finiamo sempre per ritrovarci nel sacco. Ecco un'altra illusione di cui dobbiamo sbarazzarci, concluse. Non c'è salvezza personale possibile. Henri lo guardò indeciso. Allora? Che cosa ci resta? Non molto, credo. Thank you. L'aereo filò senza scalo da Gander su Parigi e arrivò con 2 ore d'anticipo. Lasciai le valigie alla Gare des Invalides e presi l'autobus. Era un'alba grigia, deserta, in cui il mio arrivo clandestino, mentre mi credevano ancora lontana tra le nuvole, rasentava l'indiscrezione. Un uomo spazzava il marciapiede davanti al portone ancora chiuso. La nettezza urbana non era ancora passata. Io arrivavo prima che lo scenario fosse sistemato e gli attori truccati. Non è un'intrusione, certo, rientrare nella propria vita. Eppure, mentre aprivo e richiudevo piano la porta di casa per non svegliare Nadine, quei gesti furtivi mi davano una vaga sensazione di colpa e di pericolo. Nessun rumore nello studio di Robert. Girai la maniglia di porcellana. Quasi subito alzò la testa. Scostò sorridendo la poltrona. Mi venne incontro. «Mia povera bambina», disse abbracciandomi. «Arrivi così, sola sola. Io stavo per venire a prenderti». «L'aereo è arrivato con 2 ore di anticipo», dissi. Lo baciai sulle guance malrasate. Era in vestaglia, irsuto, gli occhi gonfi di insonnia. «Avete lavorato tutta la notte. Questo è malissimo. Quando non vi sorvegliano non siete affatto ragionevole». Chiacchierammo allegramente, ma quando Robert passò nel bagno, io ritrovai quel silenzio che m'aveva soffocata quando, socchiudendo la porta, l'avevo visto intento a scrivere, con la testa china, lontanissimo da me. Com'era piena e completa quella stanza, anche senza di me. Robert aveva una quantità di cose da raccontarmi, dunque raccontava. Era molto più allegro di quando l'avevo lasciato, non che la situazione internazionale gli sembrasse brillante, ma aveva ripreso gusto alla propria vita. La riconciliazione con Henri contava molto, e il suo libro aveva avuto un eco tale che, contro ogni logica, s'era messo a scriverne un altro. Io l'ascoltavo. Sentii improvviso il bisogno di parlare. Raccontai la mia ultima settimana, ma fu ancora peggio che tacere. Come l'anno avanti, mi sentii odiosamente colpevole. La sera Nadine mi disse: «Ha telefonato Paul per sapere se eri arrivata?» «È la terza volta», disse Robert, «bisognerà che tu ci vada». «Ci andrò domani. Mardrus dice che è guarita», aggiunsi. «Ma come sta, per davvero?» «Henri l'ha rivista?» «No», disse Nadine. «Mardrus non l'avrebbe lasciata uscire se non fosse guarita davvero», disse Robert. Dissi: «C'è guarigione e guarigione». Il giorno dopo telefonai a Paul per avvertirla della mia visita. La sua voce era breve e calma. Arrivai verso le 10 di sera in quella strada che m'era parsa così tragica l'inverno prima e fui sconcertata dal suo aspetto rassicurante. Le finestre erano aperte sul tepore della sera. La gente chiacchierava da una casa all'altra. Una ragazzina saltava alla corda. Ma augurai quasi di veder comparire dietro la porta una Paul allucinata e ostile. Ma fui accolta da una donna sorridente e grassa, vestita d'un elegante abito nero, che mi rese il mio bacio senza slancio e senza reticenza. La stanza era in perfetto ordine, gli specchi erano stati rimessi, e per la prima volta dopo tanti anni le finestre erano spalancate. «Come stai? Hai fatto un bel viaggio? È carina questa blusa. L'hai comprata laggiù?» «Sì, a Messico. Ti piacerebbero quei paesi». Le misi un pacco tra le braccia. «Tieni, t'ho portato delle stoffe». «Come sei cara». Mentre svolgeva le stoffe ricamate, io mi accostai alla finestra. Il fiume di sempre, Notre Dame con i suoi soliti giardini, con la pesante ostinazione delle sue pietre, lungo il parapetto chiuse a catenaccio le casse di ferro dei bouquinist. Una musica araba saliva dal caffè di fronte, un cane abbaiava e Paul era guarita. Era una sera antica. Non avevo mai incontrato Lewis. Mai incontrato. Non poteva mancarmi. «Devi raccontarmi di laggiù», disse Paul. «Devi raccontarmi tutto. Ma non restiamo qui. Voglio portarti in un locale davvero divertente. L'Ange Noir. Se è aperto da poco, ci vanno tutti». «Tutti chi?» chiesi un po' intimorita. «La gente, tutti», ripeté. «Non è lontano, ci andremo a piedi». «Va bene». «Sono piena di progetti», disse Paul. «Prima di tutto lascerò questo studio che m'annoia. Claudie m'ha proposto di andare da lei, ho accettato, e ho deciso di diventare celebre. Voglio andare in giro, viaggiare, conoscere gente, voglio la gloria e l'amore. Voglio vivere». Disse queste ultime parole in tono solenne, come se avesse pronunciato un voto. «È qui», disse. Scendemmo in una cave calda e umida come la giungla di Chichen Itza. Era piena di rumori. di fumo, di ragazzi e ragazze in tuta che non avevano affatto la nostra età. Paul scelse una tavola vicino all'orchestra, esposta a tutti gli sguardi, e ordinò con autorità due doppi whisky. Non sembrava accorgersi che noi due lì eravamo completamente fuori luogo. Questa crisi è stata dura, ma sapessi che gioia per me essermi finalmente ritrovata. Avrei voluto dirle qualcosa di affettuoso, che ero contenta di vederla felice, o un'altra cosa qualsiasi, ma le parole mi morivano sulle labbra. Quella voce volontaria, quel viso rigido, mi gelavano. Paul mi sembrava più strana e più estranea di quando era pazza. «È bravo, Mardrus, vero?» dissi in tono incerto. «Ah, è un uomo straordinario», disse Paul con foga. «È incredibile con quanta sicurezza ha trovato la chiave di tutta quella storia». Non dissi niente. Conoscevo bene il genere di spiegazioni di cui s'era servito Mardrus. Anch'io me ne servivo al bisogno. «Sì, per liberare Paul, avevano dovuto rovinarle il suo amore fino in fondo al passato. Ma io pensavo a quei microbi che non si possono distruggere senza distruggere l'organismo stesso che stanno divorando. Henri era morto per Paul, ma anche lei era morta. Questa grossa donna dal viso sudato, dagli occhi bovini. Io non la conoscevo. Avevo voglia di piangere con lei su quell'amore che era stato per 10 anni il senso e l'orgoglio della sua vita e che ora s'era mutato in una piaga vergognosa. Bevi un altro sorso di whisky e strinsi più forte il bicchiere, come un talismano. Piuttosto soffrire, pensai, che finir per disperdere al vento, ridendo, le ceneri del mio passato. Valentina Carnelutti ha letto I mandarini di Simone de Beauvoir, regia di Anna Antonelli, riduzione di Chiara Nicoletti, a cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it